Tokyo 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Stiamo per farvi lavorare, ascoltatrici e ascoltatori, per fare un'inchiesta semplice, ve ne parlo dopo, state collegati, adesso i titoli di questa puntata. Tanti disastri ambientali in questi ultimi mesi, ma le loro conseguenze non si potevano studiare prima. Circa la metà degli studenti italiani gioca scommettendo denaro, più di 1,5 milioni è minorenne e lo fa illegalmente. Dalla nostra Puglia un dispositivo per separare l'acqua dal greggio. Il governatore Vendola lo propone agli americani. I farmaci sono in genere messi a punto e valutati considerando i loro effetti su esseri maschili, e invece i processi fisiologici non sono sempre uguali. C'era una volta, nell'antica Grecia, la malattia mentale, vissuta come un male, ma anche come una risorsa culturale e sociale. Come vi dicevo all'inizio della trasmissione, abbiamo bisogno di voi per fare un'inchiesta, un'inchiestina scientifica ovviamente, è un lavoretto semplice, non vi preoccupate. Però non posso dirvi di che si tratta, perché si tratta appunto di un'inchiesta con una domanda solo, quindi semplicissimo. E se adesso vi dico qual è questa domanda, poi qualcuno si può preparare la risposta e non vale. Dove allora troverete tutte le istruzioni? Allora, cercate in internet la pagina Facebook di Möbius, la trovate digitando Möbius Scienze nella casella di Facebook e lì avrete tutte le istruzioni. Apparirà un punto di domanda, lì capirete tutto. Credo che ci siamo accorti tutti che negli ultimi tempi, negli ultimissimi proprio, 2-3 mesi, insomma, ci sono stati due bei grandi disastri. Mio ospite questa sera è Maurizio Catino. Buonasera Catino. Buonasera a lei e radioascoltatori. Professore di sociologia dell'organizzazione all'Università Milano Bicocca e insomma, vabbè, per dirla in breve, lei si interessa anche come ricerca di disastri, insomma, di problemi di organizzazione umana a fronte di grandi eventi un po' complicati come questi che stiamo vivendo, insomma, no? Sì, esatto, è proprio così. Nuvole e piattaforme, è una bella binata tra l'altro, perché è tutto in corso di aggressione all'ambiente. Quello che è il tema, insomma, di questa breve riflessione che vogliamo fare insieme è il seguente. Ok, d'accordo, ci sono delle cause che possono essere largamente imprevedibili come quella della nuvola oppure decisamente più prevedibili come quella della piattaforma. Ma comunque dimentichiamo un attimo le cause. Il problema è gli effetti che queste cose, che questi eventi producono, però possono essere invece assolutamente previsti, nel senso che possiamo dire va bene, l'origine sarà la più diversa, però se a un certo momento il traffico aereo in tutto metà Europa, insomma, si blocca, come si gestisce questa cosa? Ecco, la domanda che le faccio è, mi pare che in questa direzione ci sia pochissima ricerca, pochissima preparazione. Sì, esatto. Cioè, il problema è questo, è chiaro che quello è un evento non prevedibile, o almeno allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche. Ciò che però noi possiamo fare è progettare dei sistemi, delle forme organizzative, dei modi di comportamento organizzativo che siano in grado di gestire le conseguenze di questi eventi. In altre parole, uno studioso americano dice che le organizzazioni dovrebbero essere preparate per pensare al peggio, cioè per pensare a quegli eventi, diciamo così, inaspettati, che possono in qualche modo bloccare il funzionamento di queste organizzazioni o metterne in discussione, diciamo, la loro continuità di funzionamento. Le banche per esempio lo fanno, ci sono alcuni processi di business continuity che hanno proprio questo obiettivo di mettere in grado queste organizzazioni di funzionare anche a fronte di gravi eventi che possono in qualche modo impedirne il regolare funzionamento. In altre parole, se non siamo in grado di fare una forte prevenzione, dobbiamo essere in grado di sviluppare una capacità di gestione di questi eventi inaspettati. Preparando appunto questa trasmissione, facendo due chiacchiere, per esempio si diceva nella settimana di gran caos della nuvola si è riusciti a organizzare un solo treno che dall'Italia portava dei turisti o dei viaggiatori a Parigi, poi quando c'è una manifestazione delle tante a Roma, Trenitalia organizza 15 treni, 20 treni speciali, no? È qui che c'è questo gap. Sì, esatto. Certamente è difficile prevedere l'eruzione di un vulcano, soprattutto se questa è inaspettata, non dà dei segni preliminari, e questo, diciamo, è fuori di dubbio. Ciò che però non è assolutamente imprevedibile è il fatto che ci possono essere dei fenomeni che blocchino per qualche motivo il trasporto aereo. Sì. No? So che per esempio le diverse cause, sì, diciamo, che producono uno stesso effetto. Esatto. Allora, se noi ragioniamo in questi termini, cioè che per qualche motivo ci sia un blocco del trasporto aereo, per esempio per motivi terroristici o per cause naturali o per altri meccanismi, allora in questo caso noi dovremmo mettere in campo delle misure di rimedio, per esempio ricorrendo al trasporto ferroviario. È inutile aspettare l'ultimo giorno possibile per prepararsi su questo. So che voi studiate delle situazioni, delle aree organizzative, come per esempio quella dei pompieri o addirittura quella delle portaerei, no? Che sono, per esempio, la portaerei, ecco, è un sistema complesso da gestire, ad alto rischio, e però funziona. Esatto, la portaerei per certi versi è un po' come il caso del Calabrone, cioè non si capisce come mai riescono a funzionare con un bassissimo ratio incidentale. Atterrare, decollare su una portaerei con il mare in tempesta, comunque in movimento, con un pontile sporco di olio e di carburante, con armi sparse, missili e quant'altro, senza avere incidenti, è sicuramente un'operazione ad altissimo rischio, ma nello stesso tempo a un bassissimo tasso di errore. Come fanno? Fanno in questo modo, cioè hanno sviluppato delle pratiche gestionali di management che sono in grado di apprendere dai segnali deboli, cioè dagli errori, dai piccoli, diciamo così, piccoli indicatori di problemi, e quindi di anticipare questi eventi e di contenere le possibili conseguenze degli eventi stessi. C'è quindi un livello di attenzione costante molto elevato, una psicosi positiva, insomma, e questo è un po' il segreto, no? Sì, esatto, la psicosi positiva, cioè queste organizzazioni sono costantemente, sono un po' nevrotiche, no? Ha detto giustamente bene lei, una psicosi positiva, cioè sono costantemente preoccupate che qualcosa possa andare male. Cioè, in altre parole, trattano anche se, diciamo, i piccoli errori come indicatore di qualcosa di molto più grave. Quindi non lo vedono come un indicatore come un fatto di successo l'averlo gestito, ma come un indicatore di possibili conseguenze ancora più gravi. E quindi hanno dei livelli di attenzione organizzativa, alcuni americani la chiamano mindfulness, di una elevata consapevolezza della situazione che consente appunto di gestire la funzionalità di questi, appunto, di questi sistemi. Senta, in conclusione brevemente, ma non ci dovrebbe essere in varie situazioni formative qualcuno che addestra a fare ciò, a sviluppare questa cultura? Sì, esatto, perché il problema è proprio questo: se la gestione delle crisi una volta riguardava sostanzialmente le organizzazioni ad alto rischio, oppure pensiamo al campo della protezione civile, oggi queste capacità, queste abilità manageriali e gestionali sono delle abilità sempre più richieste da qualsiasi tipo di organizzazione. Forse se escludiamo alcuni pezzi di organizzazioni un po' burocratiche, per il resto dovrebbero essere delle competenze molto presenti nella formazione del management contemporaneo, cosa che ovviamente non accade, perché il management oggi è formato prevalentemente sulle variabili, diciamo così, economico-finanziarie, in parte organizzative e strategiche, pochissimo su questi aspetti, e quindi quando poi si trova a gestirle non è in grado, perché non riesce proprio a mettere in campo quelle misure di rimedio adeguate. C'è un grosso deficit formativo. Grazie Maurizio Catino e buon lavoro. Grazie a lei e ai suoi radioascoltatori. Non era una moglie qualunque, ma la sorella. Vi sto parlando di Tutankhamon come figlio e del papà, il faraone Akhenaton, che muore nel 1317 a.C. Non si era mai capito con chi Akhenaton si fosse accoppiato per generare Tutankhamon, cioè prove concrete, scientifiche. Recentemente un gruppo di ricerca di genetisti tedeschi, lavorando su resti, su mummie cioè, ha scoperto che Akhenaton si era unito alla sorella. La ricerca ha lavorato su 12 mummie reali, mummie di donne, che si conosce essere tutte dello stesso periodo in cui visse Akhenaton. È un dato che si sa da tempo e che non è stato difficile ricavare, perché tutte quelle mummie portano sulle bende dei segni, dei sigilli, che sono tutti uguali e che sono tipici del regno di Akhenaton. Però, diversamente da quanto si è trovato sempre in altre mummie, i nomi dei defunti erano cancellati. Questo fatto dipende dalle vicende che segnano la vita del faraone Akhenaton, che fu un eretico rispetto alla cultura tradizionale egiziana, soprattutto per aver instaurato il culto di un dio solo, Aton, gesto estremo in quella cultura religiosa che ha sempre vissuto adorando molte divinità. Alla morte di Akhenaton tutte le sue regole furono sovvertite, si tornò alla tradizione e la sua figura cadde in disgrazia. Torniamo alle 12 mummie. Dopo una serie di analisi con l'incrocio fra il DNA ricavato dalla mummia di Akhenaton, quello dei 12 reperti e quello ovviamente di Tutankhamon, l'indagine si è ristretta a 2 mummie e quando l'analisi si è spinta più in profondità si è capito che solo una delle due è la madre e il DNA relativo segnala che questa donna era una sorella di Akhenaton. Ora sarà bene ricordare che è Nefertiti, colei che la tradizione, quella scritta per esempio sui bassorilievi di Amarna laggiù in Egitto, racconta essere stata la sposa ufficiale di Akhenaton. E questi racconti narrano come lei avesse messo al mondo 6 figlie e poi un settimo, un maschio. Il gruppo di genetisti, consultandosi con storici dell'Egitto, ritiene probabile che il faraone abbia seguito i parti successivi della sua sposa Nefertiti e, arrivando alla 6ª femmina e avendo lui l'intenzione di lasciare il regno a un maschio, si sia, come si dice in questi casi, discretamente rivolto alla sorella. Ne aveva 4 per l'esattezza e di loro si conoscono anche i nomi, ma quella delle 4 con cui avvenne la nascosta unione, questo non è noto. La scoperta è importante, senza dubbio si rifletterà su quell'altro settore di indagine che si occupa della vita breve e tragica di Tutankhamon, che morì meno che 20enne e il cui corpo pare fosse segnato da molti e gravi acciacchi, causa di un accoppiamento troppo stretto dal punto di vista genetico. Non è vero che questo genere di conseguenze siano così dirette, però il problema esiste, le probabilità non sono basse. Questa è la storia di Akhenaton e di sua sorella. Per il momento non è ancora finita sugli schermi di Voyager, sorprendente, ma probabilmente ci arriverà a breve e quindi sapremo i collegamenti fra Akhenaton e Rita Hayworth, che morì di Alzheimer, e il famoso Doc Holliday, ve lo ricordate, l'amico fedele dello sceriffo Wyatt Her, perché Holliday era tubercolotico, la stessa malattia di cui sembra morì Tutankhamon. Naturalmente la Hayworth discenderebbe dalla sorella di Akhenaton. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo al nostro gioco, il nostro quiz, che sarà un filo doloroso, ma però curioso. Eccoci qua. Allora, il quesito è il seguente. Se ci tagliamo il polpastrello di una mano, quando la ferita si rimargina, l'impronta digitale di quel dito, appunto, una volta guariti, è cambiata? Allora, prima possibilità, no, scriverete no. Seconda, sì, scriverete sì. La terza, dipende dalla direzione che ha il taglio, verticale o orizzontale, per esempio, rispetto all'impronta, e quindi ci scriverete dipende. Sempre con il solito SMS al 349-238-6666, il libro che si vince questa settimana è Ai confini dell'anima, i greci e la follia, di Giulio Guidorizzi, edito da Raffaello Cortina, e con Guidorizzi parleremo fra poco. In collaborazione con IBS.it. Chiara Albicocco, ciao. Ciao Federico, buonasera a tutti. Sei qui e mi dici subito che? Ti dico che circa la metà degli studenti italiani, pensa un po', usa abitualmente le lotterie istantanee, ma non solo, anche le scommesse sportive, i gratta e vinci e tutti questi giochi in cui si utilizzano ovviamente i soldi. Giochi d'azzardo. Esatto, ma non solo. Più di 500.000 sono i ragazzi adolescenti che scommettono illegalmente, cioè che non hanno raggiunto i 18 anni. Questo è un dato che fa pensare, sì. Con chi ne parliamo? Certo, ne parliamo con la coordinatrice di uno studio dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, che appunto ha riscontrato che questo trend è anche in aumento. Diamo il benvenuto alla dottoressa Sabrina Molinaro, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Dunque, abbiamo detto più o meno quello che è uscito dal vostro studio, ma ora dobbiamo assolutamente approfondire. Quanti sono stati gli adolescenti che avete intervistato e in cui è emerso appunto questo trend in aumento? I dati di cui stiamo parlando fanno parte dello studio ESPAD, che è uno studio abbastanza generale su tutti i comportamenti a rischio degli adolescenti, e ogni anno prende in considerazione i questionari compilati da circa 40.000 ragazzini delle scuole superiori, tra i 15 e i 19 anni. Sono 600 le scuole che ogni anno partecipano allo studio. Ed è emerso che, insomma, sono abbastanza attivi nelle scommesse, nell'utilizzo di denaro per questi giochi organizzati. Eh sì, in realtà questo dato lo stiamo monitorando da una decina d'anni e in maniera sempre più approfondita col passare del tempo, perché poi all'inizio sembrava quasi un'abitudine di nicchia, invece negli ultimi anni abbiamo notato un trend in ascesa, tanto da costringerci ad aumentare le domande che vanno ad indagare a cosa giocano i ragazzi, quanto spendono, che caratteristiche hanno i ragazzini che giocano. E vediamo che nell'ultimo anno c'è stato un incremento notevole di chi gioca occasionalmente. Diciamo che c'è stato un aumento circa del 7%, sono passati dal 40 al 47% gli studenti che ci hanno detto: io ogni tanto gioco a giochi in cui si vincono o perdono soldi. Ecco, quali sono più o meno questi giochi? Ci dia un'idea? I giochi sono un po' tutti, diciamo che i preferiti indistintamente da maschi e femmine sono i gratta e vinci e tutte le lotterie istantanee, cioè quelle dove il piacere del vincere è immediato. Quindi il 33% degli studenti ci ha detto: io quando gioco a gratta e vinci. Poi c'è un 13% di ragazzini che ci dice di giocare a lotto, super enalotto, comunque ai giochi fra virgolette classici, e un 16% che gioca a giochi, a scommesse sportive in generale, quindi sale scommessa in cui si dal totocalcio più conosciuto a quelli insomma un pochino meno noti. E in ascesa sono il poker texano, conosciuto come Texas Hold'em. Ecco, glielo stavo per chiedere io, che infatti in questo periodo spopola anche con gli spot pubblicitari in TV, esatto, e i ragazzi sono sensibili. Sì. Infatti poi quando abbiamo chiesto agli studenti dove giocano, abbiamo visto che è in ascesa la percentuale di ragazzini che ci dice di giocare via internet, quindi vuol dire che comunque questi ragazzi hanno accesso ad una carta di credito prepagata, quindi possono avere il loro account sul sito X o Y dove si gioca online e poi riescono a giocare a giochi a soldi su internet. Circa il 5% è la quota di studenti che ci dice: io gioco sistematicamente online. Diciamo che però la maggior parte dei ragazzini comunque gioca o in bar, tabacchi, pub, luoghi pubblici, oppure a casa di amici, quindi vuol dire che c'è anche una rete sociale in cui ci si ritrova e si gioca. Che la supporta. Certo, senta, maschi e femmine come siamo messi? Maschi e femmine siamo messi che i ragazzini giocano più delle ragazzine, i maschi comunque hanno un'attitudine al gioco superiore, però negli ultimi anni abbiamo visto un incremento superiore nelle studentesse, cioè sono più le ragazzine che stanno incrementando la loro abitudine al gioco rispetto ai maschi. Anche rispetto a che cosa si gioca ci sono delle differenze, chiaramente. E nelle scommesse sportive vediamo impegnato il 30% degli studenti, mentre per quanto riguarda le studentesse sono solo il 4% quelle che ci dice: io faccio scommesse sportive. E invece il gratta e vinci, come dicevo, è il gioco preferito di tutti, anche fra le studentesse è a capo della top 10. A livello di costi, quanto spendono i ragazzi? Perché vabbè, il gratta e vinci 1, 2, 5 euro massimo, però insomma con le scommesse ci sono anche cifre ingenti. Le slot machine nei bar, per esempio, no? Noi abbiamo chiesto loro quanto spendono, con dei range, non è che gli abbiamo chiesto esattamente la spesa, e il 70% dei ragazzini ci ha detto di spendere mediamente al mese 10 euro o meno, quindi diciamo che la maggior parte spende relativamente poco. Però vediamo che c'è un 23% di studenti che ci dice di spendere mediamente ogni mese tra gli 11 e i 50 euro, quasi un 7% di studenti che ci dice di spendere più di 50 euro al mese. Quindi non male, come cifra consistente. Direi proprio che di sì. Segue poi un po' l'andamento del reddito. Direi che qui Il cuore del problema è che molti sono minorenni, quindi su internet secondo me il problema è grave, però nelle tabaccherie insomma si potrebbe in qualche modo risolvere chiedendo magari contenerlo. La carta d'identità, no? Sì, in effetti il gioco in teoria sarebbe illegale in Italia per i minori di 18 anni, e invece quando abbiamo chiesto ai quindicenni per esempio quanti sono quelli che giocano a giochi a soldi, il 42% ci ha detto di sì, che gioca abitualmente a giochi di soldi, quindi non dico i 17 anni che possono essere borderline, ma insomma un quindicenne si vede se è minorenne. Ecco, poi il vostro studio ha analizzato regione per regione e mi sembra che abbiate più o meno una mappa in testa di quelli che siano le realtà in ogni regione. Dunque, quali sono i ragazzi che giocano di più e quali di meno? Dunque, nel nostro studio, oltre a rilevare l'abitudine al gioco, rileviamo anche diciamo un profilo di rischio problematico rispetto al gioco attraverso un questionario autosomministrato che si chiama SOGS. E è molto interessante il confronto fra l'abitudine al gioco e il profilo di rischio rilevato se l'andiamo a vedere all'interno delle regioni. Perché la cosa che ci salta all'occhio, ma lo abbiamo visto negli anni ripetersi, è che ci sono alcune regioni dove l'abitudine al gioco non è molto diffusa, ovvero è una parte minore della popolazione quella che ci dice gioco. Faccio l'esempio del Veneto perché è quello che ci salta sempre di più all'occhio. In Veneto il 36% degli studenti gioca diciamo ogni tanto, quindi non occasionalmente, però di questo 30% uno studente ogni tre ha già un profilo di rischio grave o moderato, quindi il 10% dei giocatori presenta con questo questionario autosomministrato già un profilo di rischio. È come se ci fossero pochi giocatori che però giocano in maniera molto hard, pesantemente, diciamo, da adulti. Esattamente. Quindi i ragazzi del Veneto, lo sappiamo, insomma, sono abbastanza incalliti. E nel resto d'Italia come siamo messi? Nel resto d'Italia abbiamo regioni dove si gioca tanto, per esempio la Basilicata, la Puglia, la Sardegna, la Campania, hanno un'alta diffusione di abitudini al gioco, oltre il 57 e 58%. Lì c'è anche tutta la tradizione del lotto, della numerologia, Esatto, però la proporzione diciamo con quelli che presentano un profilo di rischio moderato o grave è differente, cioè mentre in Veneto uno studente ogni tre c'ha già un profilo di rischio grave, le faccio un esempio, in Campania è uno studente ogni sette che presenta un profilo di rischio già grave, insomma, quindi e anche rispetto a che cosa giocano abbiamo visto regione per regione che ci sono delle peculiarità. C'è saltata all'occhio per esempio la Campania, dove è molto alta, come dicevate voi, la prevalenza degli studenti che giocano a gratta e vinci e lotto istantaneo, cioè sono molto abituati a giocare a questo tipo di giochi, il 45% ci dice di fare questo tipo di giochi, e sempre in Campania sono molto diffuse le scommesse sportive. Mentre un'altra cosa che ci è saltata all'occhio è la Calabria, perché... Cosa fanno gli studenti calabresi? Gli studenti calabresi, oltre vabbè a giocare anche loro a gratta e vinci, lotto, giochi istantanei e a fare molte scommesse sportive, hanno la peculiarità di essere quelli che giocano di più all'interno delle sale giochi e su internet, cioè sono fra tutti gli studenti italiani quelli che ci hanno mostrato di avere una maggiore attitudine al gioco via internet. Questo non ce lo aspettavamo onestamente dalla Calabria. Chissà come spiegare questo dato, va bene, insomma. Comunque noi ci sentiamo magari l'anno prossimo, vediamo se questo trend è in crescita, insomma speriamo di no e speriamo che ci siano più controlli soprattutto per quel che riguarda insomma le tabaccherie, i bar, dove è possibile arginare questo fenomeno, no? Certo, i luoghi pubblici sicuramente potrebbero essere più monitorati. Va bene, grazie dottoressa Molinaro e buon lavoro, ci sentiamo presto. Grazie, arrivederci. Buona serata. Ecco, hai visto Chiara, non puoi giocare. Sì, ecco, diciamo che l'adolescenza l'ho abbandonata da un po' e anche il gioco d'azzardo non è mai stato un mio forte. Non è vero, Chiara Albicocco ha 15 anni. Magari. Cambiamo violentemente, direi, contenuti, mettiamoci di fronte a un container di quelli per grandi spedizioni. Il problema che abbiamo è il seguente: buttando dentro il container degli oggetti dello stesso tipo, ma alla rinfusa, cioè con un sistema di carico rapido e brutale, quale forma degli oggetti è la più adatta a riempire al massimo lo spazio del container? Ebbene, vi ricordate il latte nel Tetra Pak, quella forma di cartone piramidale con quattro lati triangolari? Ecco, quella è la forma migliore. Il tetraedro riesce a occupare il 76% dello spazio disponibile. Lo si stabilisce facilmente, si buttano i tetraedri dentro il container fino a riempirlo tutto, poi si butta dell'acqua dentro il container e quando questa arriva radente al lato sopra, tipicamente da cui potrebbe uscire, ci fermiamo, togliamo l'acqua, vediamo che volume ha quest'acqua e con una elevata approssimazione sappiamo quanto spazio occupava del container. Riempendolo di sfere, che era l'altro candidato, diciamo, come forma, si ha meno il 64%. Ci si potrebbe chiedere a che cosa serva tutto ciò. Beh, un caso evidente è quando il container è utilizzato per spedire materiale grezzo, per esempio ferro. Ecco, in questo caso sappiamo che la forma migliore è il tetraedro. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. È Maurizio Melis che vi racconta di questa singolare possibile relazione tecnologica fra la nostra Puglia e il Golfo del Messico. Si chiama Oil SEP CC Ecology ed è stata sviluppata dalla società barese Fluidotecnica San Severino. È stata selezionata per essere esposta al padiglione italiano dell'Expo di Shanghai e recentemente è finita un po' su tutti i media. Se ne è parlato molto, è finita su Wired, è finita anche su Sole 24 Ore. Perché? Perché potrebbe dare una mano a risolvere il disastro che si avvicina progressivamente sempre di più alle coste degli Stati Uniti, che minaccia ecosistemi fragilissimi. Pensiamo alle foreste di mangrovie della Florida, per esempio. Ebbene, come avrete capito, parliamo della gravissima perdita di petrolio che si sta verificando a causa di una rottura di una piattaforma petrolifera dal fondale del Golfo del Messico. È un argomento caldo con tutte le polemiche che riguardano anche il tentativo della compagnia petrolifera inglese di minimizzare il disastro. Allora ci facciamo spiegare da Michele Sanseverino, che è titolare della Fluidotecnica Sanseverino, che cos'è Oil SEP CC Ecology e in particolare come funziona. Buonasera Sanseverino e benvenuto. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Bene, allora stiamo parlando di una macchina che serve a separare la parte oleosa, la fase oleosa, in un liquido che appunto è costituito da acqua su cui galleggia dell'olio di qualche tipo. Come funziona però? Allora, diciamo che il principio di questa macchina è basato solo su un principio fisico, dove lavoriamo sulla densità dei fluidi e in questo caso andiamo ad aspirare l'acqua inquinata da petrolio, da olio e andiamo a recuperare quella che è la parte oleosa, recuperandone circa il 99,99%. Questo intanto significa che quella parte non si butta via, non viene disciolta, si può riutilizzare? Certamente, assolutamente sì, perché questo è un recupero che ci permette anche di poter riutilizzare l'idrocarburo recuperato. Ecco, ma appunto come avviene il processo e in che cosa si differenzia, diciamo, dai metodi convenzionali? Allora, il processo è meramente fisico, dove aspiriamo i due fluidi, in questo caso bifase, e li convogliamo direttamente in camere che facciamo veicolare a diversa velocità e aggreghiamo le particelle con densità minore, in questo caso l'olio, e lo spingiamo con un delta P di pressione, con una differenza di pressione nelle camere, verso l'alto, mentre l'acqua la facciamo defluire nettamente separata e pulita. Assomiglia un po', se mi corregga però se sbaglio, quando uno versa un po' di olio nell'acqua, è una cosa che abbiamo fatto tutti a casa, si formano queste bollicine che tendono effettivamente ad aggregarsi. Voi è come se acceleraste questo processo? In effetti il nostro impianto è stato brevettato come acceleratore di separazione. Ecco. In effetti è un acceleratore che non fa altro che accelerare il processo di decantazione e poi riusciamo a separare i due fluidi, cosa che ovviamente richiede un pochino di attenzione in più, perché normalmente si differenzia dagli altri sistemi perché non usa né centrifughe né quelli che sono additivi chimici o elementi di filtrazione. Non c'è ancora nulla di simile, voi l'avete già portato in diverse fiere, anche un po' per capire se qualcuno non vi aveva preceduto, e sembra che in effetti nessuno ci sia arrivato prima di voi. Tra l'altro ci siete arrivati senza finanziamenti pubblici, insomma, a dimostrazione che se c'è capacità imprenditoriale poi qualcosa si combina indipendentemente dalle condizioni al contorno. Inizialmente sui giornali si è detto c'è stata questa offerta di collaborazione da parte vostra, ma non c'è stata risposta. Forse qualcosa invece si sta muovendo. diciamo che proprio oggi abbiamo ricevuto dal governo americano il loro contatto per poter avviare una serie di incontri e valutare la fattibilità dell'intervento. Anche perché si è attivato il presidente della regione Puglia, si è attivato il governo da questo punto di vista. Ecco, sì. Il macchinario quanto liquido è in grado di processare più o meno? Allora, di macchinari ci sono di diverse taglie. Quello che normalmente vorremmo cercare di utilizzare in questo caso è di circa 25.000 litri l'ora di separazione, quindi in questo caso andremo a estrarre 25.000 litri di petrolio dalla massa acquosa. D'accordo, ecco, che è una quantità insomma piccola rispetto all'entità dello sversamento, quindi non è che potete pensare di prosciugare la macchia che si è ormai sparsa su un territorio enorme con questo metodo. Dove allora pensate che potrebbe tornare utile il vostro sistema? Ma diciamo che il nostro sistema può anche lavorare a largo, però non è risolutivo, perché quello dove noi vediamo posizionata la nostra macchina è nelle zone rivierasche, quindi laddove ci sono in prossimità di spiagge o in particolar modo nelle zone lagunari che la conformazione di quelle coste ovviamente ha. Certo, quindi insomma si tratta di, come dire, ridurre il danno, di fermare la macchia laddove sta per entrare in contatto con le coste? Sì. Diciamo che noi dobbiamo cercare di ridurre e di contenere quantomeno il danno, perché non possiamo dire che la panacea è la soluzione. Va bene, grazie Sanseverino e buon lavoro e buona fortuna. Grazie anche a lei, buona serata. È vero, certo, che il corpo umano e il suo funzionamento è altamente simile fra maschi e femmine, ma non lo è del tutto, e questo al di là della banale nota differenza sul piano sessuale. Barbara Galavotti vi spiega che cosa tutto ciò c'entra con i farmaci. Viva la differenza, chi può negarlo? E soprattutto viva la differenza tra uomini e donne, a patto però che la differenza sia davvero tenuta in considerazione e non divenga uno svantaggio. Ora, lo so che voi pensate che ora io incomincerò il solito discorso sulla discriminazione delle donne, e avete anche un po' ragione, ma in realtà non del tutto, perché non sto per fare il solito discorso. Questa volta si parla di un tipo di discriminazione molto particolare, riguarda la possibilità per le donne di avere accesso a farmaci pensati proprio per loro e non per un organismo maschile. Perché i farmaci, in genere, sono a misura d'uomo e per ragioni che, come vedremo, non sono ideologiche, ma molto pratiche. Il dibattito su questo problema si sta accendendo anche in Italia ed è appena uscito con l'editore Castelvecchi Il Fattore X, il primo libro sulla medicina di genere scritto dalle donne e pensato per le donne. Le donne che lo hanno scritto sono due giornaliste scientifiche specializzate in medicina, Letizia Gabaglio ed Elisa Manacorda. Letizia Gabaglio è qui con noi. Ciao Letizia. Salve, buonasera. Cominciamo con una domanda facile, forse però non troppo facile. In cosa sono diversi uomini e donne? Bene, il fatto che gli uomini e le donne siano diversi può effettivamente apparire un'ovvietà. In realtà non lo è per la medicina. Faccio un esempio, i libri su cui studiano i medici parlano di differenze solo quando si tratta di descrivere il sistema riproduttivo. Invece sappiamo che gli uomini e le donne sono diverse anche nella dimensione degli organi, che nelle donne sono mediamente più piccoli, nella quantità di massa grassa di cui è composto il corpo, che nelle donne è circa superiore del 25%, e poi ovviamente per quel che riguarda l'assetto ormonale, che è sostanzialmente stabile per tutta la vita negli uomini, mentre è in continuo cambiamento nelle donne. Questi sono tutti fattori, queste differenze, che fanno proprio la differenza nella medicina, perché influenzano il modo in cui le malattie si manifestano e anche il modo in cui l'organismo risponde a farmaci e terapie. Ecco, il punto dolente è proprio il fatto che la medicina di queste differenze dovrebbe tenere conto. E invece? E invece succede che è più semplice, fra virgolette, considerare, prendere in considerazione l'organismo maschile come esempio di organismo umano. E questo accade a tutti i livelli negli studi clinici, cioè nelle sperimentazioni che si fanno per stabilire se una molecola che poi dovrà diventare un farmaco è sicuro ed efficace. Cosa succede? Che i ricercatori arruolano un gruppo di persone che soffre di quella malattia per vedere se questo farmaco effettivamente li cura, e questo gruppo è formato per la stragrande maggioranza da uomini. Così alla fine il risultato che avremo, cioè sapere se questo farmaco è sicuro ed efficace, è un risultato che abbiamo dimostrato sulla base dell'effetto che ha sul corpo dell'uomo e non della donna. Ora, perché i ricercatori, fra virgolette, preferiscono l'organismo maschile? Perché prima di tutto le donne potrebbero rimanere incinte durante lo studio e il feto potrebbe avere delle malformazioni a causa del farmaco che viene somministrato, e ovviamente questa è un'eventualità da scongiurare. E poi perché il ciclo ormonale cambia le condizioni fisiologiche della donna ogni settimana e queste variabili sono molto difficili da fare entrare all'interno di uno studio. Il risultato qual è? Che inserire le donne è molto costoso per chi fa degli studi, perché ovviamente deve considerare molte più variabili, deve fare molte più prove sull'organismo della donna, e siccome in molte parti del mondo questo non è obbligatorio, cioè non è obbligatorio inserire delle donne, chi fa gli studi preferisce non farlo. Nel vostro libro si dice che addirittura le sperimentazioni sugli animali preferiscono gli animali maschi rispetto agli animali femmine. Sì, questo perché sempre il ciclo ormonale varia le condizioni degli animali femmine. Quello che viene fatto allora è femminilizzare per esempio le cavie maschio, vengono femminilizzati con delle iniezioni di estrogeni che in qualche modo li rendono più femminili, ma allo stesso tempo non li rendono così variabili come sarebbe per una cavia femmina. Il problema riguarda solo i farmaci oppure c'è anche una mancanza più generale di informazione? Il problema è più generale, perché anche nello studio dei sintomi in realtà il corpo che viene considerato allo studio è sempre quello maschile. Facciamo l'esempio più eclatante, che è quello dell'infarto. Tutti sappiamo che quando si ha un infarto si ha un male al braccio sinistro e si sente un'oppressione forte al petto. Ecco, questo quadro di sintomi è un quadro che è vero prevalentemente per l'uomo. Nella donna il dolore è diverso, è più diffuso, parte di solito dalla bocca dello stomaco e si irradia fino alla schiena, è associato a nausea, a vomito, a spossatezza. Questo le donne non lo sanno. E quindi non riconoscono quando hanno... Esatto, spesso non lo sanno neanche i medici. Il quadro dei sintomi viene confuso con un quadro di tipo gastroenterologico, per cui un problema allo stomaco, e si arriva tardi alla diagnosi dell'infarto e quindi poi alla possibilità di agire con delle terapie. Cosa vi augurate col vostro libro? Che ci sia una maggiore sensibilizzazione rispetto alle differenze in medicina fra uomini e donne, non solo per curare meglio le donne, ma per curare meglio anche gli uomini, perché nel riconoscere le differenze si capisce che alcune terapie, alcuni farmaci funzionano meglio in un genere o meglio in un altro. Quindi la nostra non è solo una rivendicazione sulle donne, ma è per poter curare meglio tutti, uomini e donne. Grazie Letizia Gabaglio, buonasera. Grazie a voi, arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz, ve lo ricordo, il taglio sul polpastrello di una mano, quando la ferita si rimargina l'impronta digitale è la stessa, ritorna la stessa, allora no, sì, dipende, invece la risposta giusta era non cambia mai, se il taglio è superficiale, quando la pelle si ricostruisce scompare ogni segno e l'impronta ritorna esattamente come se nulla fosse, come prima. Qualora invece il taglio sia profondo, indipendentemente dalle direzioni, invece rimarrà una cicatrice, questo sì, sul polpastrello. Però questa, come dire, interromperà semplicemente le linee dell'impronta in una certa direzione e la configurazione resta sempre la stessa. In pratica, insomma, c'è una memoria del polpastrello, un'informazione che nulla può alterare. Andiamo indietro nel tempo, andiamo alla Grecia antica, per parlare di follia, per parlare di malattia mentale. E lo facciamo con un ospite questa sera, Giulio Guidorizzi. Buonasera Guidorizzi. Buonasera a voi tutti. Giulio Guidorizzi, docente all'Università di Torino, dove insegna e fa ricerca sulla antropologia del mito. Guidorizzi, lei è un grecista, uno storico della cultura antica. È appena uscito un suo libro, edito da Raffaello Cortina, intitolato Ai confini dell'anima, i greci e la follia. E questo testo, che tra l'altro consiglio anche a persone che magari non si interessano di questo tipo di temi, perché è un testo pieno di storie, di tanti aneddoti di quel periodo, molto, molto suggestivo soltanto già per questo suo aspetto. Però c'è un asse centrale molto interessante, cioè in quell'epoca, 2400 anni fa, c'era una copresenza, insomma. Da una parte c'era gente, i medici, c'era una cultura medica che era abbastanza fiorente, che guardava alla malattia mentale, appunto, come una malattia mentale, alla follia come una malattia, e però parallelamente c'era anche invece una visione completamente diversa di tutto ciò, perché la malattia mentale era addirittura considerato uno strumento tramite tra noi e le divinità, tra noi e tante altre cose, ed era presente, utilizzato, riconosciuto, importante, no? Sì, certamente. Direi che il concetto di pazzia, di disturbo mentale come malattia nasce appunto e si trasmette poi alla nostra cultura attorno alla metà del V secolo, attraverso i saperi laici della filosofia e della medicina. Infatti l'opera a cui lei poco fa accennava, che diciamo discute per la prima volta in termini scientifici e razionali del problema della follia, è un testo che è attribuito ad Ippocrate, padre della medicina, si chiama Sulla malattia sacra. Che cos'è la malattia sacra? È l'epilessia. Quindi questo testo fa vedere il passaggio dalla visione, come dire, religiosa e tradizionale dei disturbi mentali che sono attribuiti alla possessione, all'intervento dei demoni e così via, ha una nozione laica e scientifica, perché sono alcune parole straordinarie per la origine della storia della scienza, quando Ippocrate dice che questa malattia non è più divina di tutte le altre malattie, nel senso che non è divina, è naturale, fa parte della natura ed è una malattia del cervello. Certo. Quindi, come dire, nasce qui la nozione di disturbo psichico in quanto malattia organica. Ma non c'era uno scontro tra queste due tesi? Uno che, insomma, allora andasse a dire: guardate che questa malattia che voi interpretate addirittura come un segno divino, in realtà è una malattia come l'artrosi. Non c'era un contrasto forte? Riuscivano a convivere? Beh, infatti il nostro medico, il cosiddetto Ippocrate, perché come sappiamo sotto il nome di Ippocrate circolavano tanti testi, l'autore di questa opera se la prende con grande forza contro i guaritori tradizionali, li chiama cialtroni, vagabondi, preti di rovaghi, li accusa di ignoranza, perché non si fondano su una ricerca delle cause naturali. Quindi diciamo si crea un doppio livello. A livello scientifico le avanguardie vanno avanti a cercare le cause naturali e fondano le radici della nostra medicina, no? Ippocrate sta alla base. E dall'altra ci sono gli strati più tradizionali, più conservatori, diciamo, la massa che va avanti con i guaritori oppure pensa che gli dei intervengano rendendo folli, veggenti e così via. Quindi si marcia su un doppio binario. Proprio un doppio binario. Ecco, ma questo doppio binario vuol dire uno dei due lati del binario è consistente, perché insomma il famoso oracolo di Delfi, questa montagna che era oggetto non solo di culto e di pellegrinaggio per i greci, ma per una vastissima parte del mondo antico. Ecco, io le chiedo intanto, è assolutamente ormai, insomma, assolutamente confermato, mi sembra un po' eccessivo, ma insomma possiamo essere abbondantemente certi che effettivamente lì a svolgere la funzione di oracoli c'erano le persone che avevano probabilmente dei grossi disturbi mentali, è vero questo? Sì, è vero, ed è un problema capire perché e chi fossero, perché gli antichi parlavano di esalazioni dal sottosuolo, ma la spiegazione religiosa era che queste persone fossero possedute dal Dio, da Apollo, e cioè che alla loro personalità normale si sovrapponesse una forza misteriosa che faceva loro profetizzare. Diciamo, questo è interessante perché ci fa vedere, in questo e in molti altri casi, che i disturbi mentali in Grecia non erano marginalizzati, cioè non esiste il manicomio, non esiste la reclusione del folle, non è contemplata, e quindi la follia è inglobata nella società, in qualche modo è anche utilizzata come dire, per fondare delle istituzioni culturali come l'oracolo e così via. Cioè, si percepisce nella follia una dimensione sacra e una sua funzione. Lei cita anche dei personaggi, dei grandi pensatori dell'epoca, cita per esempio anche Pitagora, e anche se lei dice perlomeno quello che sappiamo, ecco, di Pitagora, però anche grandi pensatori, probabilmente alcuni di loro forse erano anche persone che avevano probabilmente qualche disturbo mentale, e questo entrò a far parte della loro comunicazione. Sì, è un po', devo dire, non facile da capire. Il mistero del pensiero greco, perché tutti sappiamo che ai greci dobbiamo l'origine del pensiero laico, la filosofia, certamente, però i greci, soprattutto di quest'epoca, diciamo prima di Aristotele, inglobavano nel pensiero anche il pensiero emotivo o il pensiero istintivo. Diciamo, la follia non era rigidamente separata dalla razionalità, certo, in origine. Cioè, il sapiente deve anche essere un po' folle, fra virgolette, certo, non nel senso in cui può essere folle, come dire, un malato. Però la non ragione contribuisce a fondare l'idea stessa di razionalità. In altre culture antiche, in questa funzione, insomma, proprio molto emotiva della comunicazione dei sapienti, degli oracoli, c'era l'uso di sostanze che alterano la mente. In Grecia c'è traccia di ciò, nella Grecia antica? È molto, molto discutibile che si usassero degli allucinogeni, perché sì, c'è qualche traccia, ma molto molto marginale. Esistevano altre vie altre tecniche per raggiungere stati marginali di coscienza, per esempio la trance dionisiaca si fondava sulla musica, sulla danza, poi c'erano tecniche di digiuno negli oracoli, si sa che il digiuno provoca fenomeni di allucinazione. Quindi droghe no, o molto poche. Ai confini dell'anima, i greci e la follia, scritto da Giulio Guidorizzi, edito da Cortina. Guidorizzi, grazie e buona serata. Grazie e buona serata a lei. Gli ultimi anni sono anni buoni per le sindromi autistiche. Si sta scoprendo sempre di più che questa manifestazione, certo problematica, non semplice da gestire in un contesto sociale, quello familiare o anche più ampio, è però dotata di molte ricchezze interiori. Si può, anzi, si deve imparare a riconoscere e a relazionarci con queste potenzialità. Quindi la notizia curiosa che i quadri degli autistici possono avere un notevole valore è una buona notizia, perché rende più facile la loro esistenza. Un po' di concretezza economica in questi casi non guasta. Dunque, si verifica che i bambini autistici hanno una singolare tendenza, non tutti ma molti, quella di fare dei disegni che però hanno lo stesso soggetto, solo case per esempio. Potrebbe anche essere sempre la stessa casa. A questa tendenza si aggiunge il fatto che, con l'abilità che gli autistici e le autistiche spesso manifestano, i disegni sono molto belli. Allora qualcuno ha provato a lavorare su questo comportamento. Temple Grandin, ricercatrice presso l'Università del Colorado, è lei stessa autistica e la sua specialità quando era piccola era disegnare solo briglie e morsi e tiranti vari usati per comandare il bestiame, cavalli, mucche, roba così, insomma, una cosa effettivamente curiosa. Temple Grandin ha ragionato sulla possibilità di sviluppare questa propensione al disegno degli autistici e ha scoperto che si può indirizzarla su soggetti più ampi, soggetti per disegni e quadri, e ha ottenuto dei primi risultati. Altri li ha scoperti, altri autistici, insomma, che sono stati educati a questa capacità di disegnare, di dipingere. Disegni e quadri composti da autori autistici presentano una originalità molto elevata, una capacità di definizione del particolare molto strana e anche una creatività interpretativa notevole. In breve, dei galleristi stanno interessandosi a questo nuovo universo creativo e ci sono già i primi risultati, ovvero mostre e vendite. Siamo in conclusione, mi raccomando, trovate la pagina Facebook di Möbius e dateci una mano a fare insieme questa inchiesta di cui ancora una volta non parlo qui, altrimenti poi qualcuno si prepara e la risposta non è più spontanea. Buona serata a tutti e a tutte e alla prossima settimana.